gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te. Mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo uscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando il pane forno lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella. Amore, gioia primitiva di saperti viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre da lontani stai come forever. Cristallina come una finestra che mi illumina il tuo cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino. Bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana. Tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai come forever. Bella come un'armonia, come l'allegria, come la mia nonna in una foto da ragazzo, come una poesia, oh Madonna mia, come la realtà che incontra la mia fantasia. Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Ivan d'Italia, e parte un'altra puntata dell'Onda Giallo Blu. Io vi presento velocemente i nostri amici di sempre, c'è Pierangelo Pesce e c'è Ciro Curci. Buonasera. E abbiamo anche un segretario illustre stasera, il carissimo Ivano Buondomo. Buonasera Ivano. Sharavitz. Ivano non ha microfono, ma saluta affettuosamente tutti quanti voi. Cozzoli. Ci sono? Ci siamo? Sì. Perfetto. Sì. Okay. Allora ragazzi, ben arrivati a quest'altra puntata. Che puntata, puntona. Questa è una puntona. Noi San Valentino lo trascorriamo con la nostra amata stasera, che ci fa compagnia per radio e comunque la omaggiamo di due ore, speriamo. Vediamo quanti ne sono. Vediamo quanti ne siamo. Come noi chiamano gli schermi. Ma quanti ne siete? Però ma fosse una volta la venisse mai puntuale, mannaggia la miseria, eppure se è fuori fuori mai una volta, ma dovete smettere, mai più. L'altra volta la siete presa con Mauro. Allora non è una è una questione di serietà. Gli appuntamenti sono appuntamenti, o fate quello che dovete fare, o se non ci unite. Cioè, abbiamo avuto un problema per sì, Ivano darà là. Ivano è stato. Ci ha fatto aspettare lui. Ah, come disse Ivano, ciancio alle bande. Ciancio alle bande. Parliamo di cose serie, ragazzi. Noi domenica abbiamo una gara. A meno che voi volete parlare di qualche altra cosa pregressa che è successa in settimana, questa partita innanzitutto a Martina, domenica c'è stata questa gara farsa a Martina. Ah, boh, ragazzi, non è una questione di gara forza, Ivan, perché una squadra che va a perdere 6-0 vuol dire che non è che è una gara forza, è una gara che praticamente è così, è giocata, ma non è come si diceva, secondo me, che hanno detto, è proprio l'assenteismo dei giocatori del Nardò, insomma. Ma, un po' di farsa, tanto è vero che i 4-5 giocatori migliori che aveva il Nardò, l'allenatore non li ha fatto proprio giocare, ha giocato un 95 in campo. Comunque, la dice tutto. Comunque, ragazzi, noi dobbiamo pensare a noi. No, a parte questo, c'è da dire che una cosa, questa è un'analisi che comunque io devo fare, un'analisi che va fatta. L'Ischia tutte le volte che ha dovuto disputare gare importanti l'ha fatto sempre con squadre al massimo della forma, non ultimo il Nardò, la Casertana in casa, la Turris quando è venuta a Ischia, il Brindisi, lo stesso Franca Villensini quando è venuta a Ischia era prima in classifica, quindi diciamo che noi dobbiamo dimostrare e non ha mai fallito questo voglio dire, quindi se da un lato c'è la critica costante verso il risultato infausto dell'Inter Napoli, dall'altro lato c'è anche da fare il plauso a questi ragazzi quando che si sono fatti sempre trovare pronti nel momento opportuno e quando c'era necessità di farsi trovare pronti. Adesso io vorrei anche sottolineare, come voi eravate presenti con me, la gara di Martina Franchi, dei primi 25 minuti l'Ischia comunque ha dominato in maniera netta, ha dominato chiaramente quello che era il gioco, quindi non abbiamo fatto altro che mettere, cerco di mettere in luce quella che è la validità e la bontà di una squadra che ha tutti i requisiti per poter andare avanti nel campionato in maniera positiva. No, Ivan, c'è stato qualche problemino tecnico che mi ha distratto. Il problemino tecnico che il buon Mauro ha risolto, no, certo, però effettivamente l'analisi che tu hai fatto è come al solito. Vai Ivan, come al solito limpido e lineare. Adesso però comunque giriamo pagina subito, pensiamo indipendentemente da quello che è successo domenica a Martina. Adesso, come ha detto anche il direttore in settimana, domenica ci aspetta una finale di Coppa dei Campioni. Viene questo oppido lucano, manco a farla apposta, il paesino della Basilicata sul quale è situato proprio Oppido Lucano è stato travagliato da una tempesta di neve, ieri l'hanno fatto vedere anche al TG5 che questo paese è stato falcitato da una bella bufera dalla neve. E quindi non si sono proprio allenati sul campo di gioco, hanno fatto qualche seduta in palestra, quindi va a finire che verranno qui. Sì, però noi non dobbiamo pensare a questo perché anche l'Inter Napoli è venuto qui alle 10 del mattino, mi sembrava che erano venuti a fare la Pasquetta e noi con quella partita quasi ci siamo giocati il campionato, quindi bisogna affrontare tutte le squadre, che sia l'Oppido, che sia il Francavilla, che sia la Turris, la Casertana, tutti con lo stesso piglio di una squadra che sa quello che vuole, quella squadra che è scesa a Brindisi, quella squadra che praticamente ha dimostrato di valere il primo posto in classifica. Questa è l'Ischia che noi vogliamo, non l'Ischia che prende le squadre avversarie sotto gamba. Sicuramente. E quindi questa dovrà essere l'Ischia d'ora in avanti, perché altri passi falsi non ce ne possiamo permettere. Non lo diciamo sempre per dirlo, è la pura verità, perché adesso noi stiamo ad inseguire, quindi sì, è vero, dobbiamo pensare prima a vincere noi e poi sperare sempre che comunque il Martina qualche passo falso lo dovrà fare, però se ci mettiamo poi pure noi a fare qualche altro, diciamo, qualche altro pasto falso, la situazione diventa molto certamente, molto certamente non è semplice andare a giocare lì a Francavilla, sicuramente non è semplice, non è semplice neanche la partita di Torre del Greco, però rischia tutti i requisiti per poter uscire, io questo non lo so, però nessuna partita è semplice nel mondo del calcio, non esiste per il momento, partita per il momento, caro Ciro, si è dimostrata una costante da parte del Martina avere partite diciamo, non voglio usare questi aggettivi particolari e diciamo scomodi, però insomma una partita col Nardò, quando il Nardò è venuto qui e si trovava l'ultima, noi dobbiamo pensare una cosa, no? Noi dobbiamo pensare che comunque il Martina vince, il Martina perde, il Martina pareggia, a noi, cioè noi se per il campionato malauguratamente lo dovessimo avere, l'abbiamo perso per colpa nostra. Ah, questo sì, questo sicuramente. Allora mo mettiamoci in questa situazione, che praticamente adesso Ischia in questa settimana, secondo il mio modestissimo parere, si gioca il 70-80% del campionato, cioè praticamente sì, ma caro Ciri, che state, io mi trovo perfettamente con quelle che dici tu, assolutamente, però è proprio una questione, la definirei quasi abnorme, perché non è possibile che noi tutte le volte, e questo si ripete dall'eccellenza, si ripete da anche quando, sì, era quando la eravamo in Serie C, tutte le volte che abbiamo dovuto fare qualcosa di importante, bravo, cioè, è sempre stata così. Allora io, siccome veniamo da questo terrore, compreso gli spareggi, sì, però non è possibile. Il discorso che facevamo prima lo prendiamo adesso, cioè l'Ischia comunque nelle grandi partite non è venuta mai meno, sicuramente. Quindi adesso, vista che è chiamata a fare questo, come si suol dire, tour de force, oppure queste partite che realmente adesso, prima si diceva tutte finali, ma adesso realmente sono tutte finali, quindi alla fine la vera forza di questa squadra deve venire fuori, altrimenti se il Martino è stato più bravo, ragazzi, togliamoci il cappello, il Martino è stato più bravo di noi, però l'Ischia sulla carta io mi mangio le mani, caro Ciri, quando sento questa cosa, perché onestamente fino ad ma anche secondo me mi arrabbio, forte. Ma l'abbiamo dimostrato anche quei 25 minuti fatti con Manzo in campo e con De Rosa e con qualche particolare scelta scellerata, purtroppo, da parte dell'allenatore, da parte di nostro, da parte delle critiche, anche insomma tutto quello che gira intorno a queste situazioni, magari hanno potuto inficiare su quello che poi sarebbe dovuto essere il risultato. Io ti dico la verità, io oggi stando a casa ho visto sul computer, ho visto sia la partita di andata che quella di ritorno con il Martina Franca. Sinceramente, se dovessi dire che il Martina Franca a noi ci ha rubato 5 punti, e io ti dico, per il mio modestissimo parere, ripeto, si è rubato 5 punti. Ma poi io posso essere d'accordo io con questo, però poi d'altro canto, caro Ciro, noi dobbiamo essere più forti anche della condizione burocratica, perché se tu vieni a pensare che l'unica squadra che ha giocato è stata Francavilla Nardò, è stata Martina Nardò, quando quasi tutti i campionati le partite sono state sospese in relazione a quelle che erano le condizioni climatiche, allora no, è anche questo che noi dobbiamo tenere presente, però non ci dobbiamo appellare a queste, noi dobbiamo concentrarci su quelle che sono le potenzialità dell'Ischia, cioè l'Ischia ha un potenziale che è superiore a tutti quanti, questo è quello che ma questo lo devono capire i giocatori. Ha da capire la squadra, però la squadra lo capisce quando viene praticamente messa alle strette. Lì che è stata messa alle strette con il Brindisi e non ha fatto flop perché vinse 2-0, è stato messo con la Casertana, con il Nardò, cioè nelle partite clou l'Ischia non è mai venuta a me, ma per l'Ischia devono essere tutte partite clou. Domenica viene questo oppito Lugano, una squadra che già cioè, è arrivata una domanda per te, Ciro. Leggi d'Italia, leggi. Per Ciro Curci, qual è il centrocampista che serve all'Ischia? Qui parliamo ancora di calciomercato, non è poco campionato e fernuto. Per l'anno prossimo servirà qualche centrocampista. Io penso comunque che chi vuole telefonare, il numero è 081 98 92 85. Penso che il centrocampista dell'Ischia che serve sia il recupero di Antonio De Rosa. Quello è secondo me fondamentale. Anche se le prime 4-5 partite sono stato uno di quelli là che no, l'ha criticato, però mi aspettavo molto di più. Poi dopo è uscito fuori, è venuto fuori un ottimo giocatore. Allora, niente, stavamo dicendo di questa gara di domenica, una gara che sulla carta non dovrebbe rappresentare nessuna insidia. L'andata abbiamo vinto 1-0 con la rete di Pasquale Savio. È una squadra, diciamo, come dicevo prima in settimana, non si è potuto allenare molto per le avversità meteorologiche. Ha una squadra molto molto mediocre, ha solo un paio di individualità, quel Vaccaro, quel Dama e quel Greco. Sì, ma però Ivan, questo... scusami se ti... Non diffondiamo questa situazione, perché poi dopo noi dobbiamo portare sempre la massima concentrazione. Ah, sicuro, l'Oppido viene a giocare qua con 11 giocatori e 7 panchinari, quindi alla fine 11 sono loro, 11 siamo noi, 7 panchinari, ci sta l'arbitro, ci sta, e si deve giocare una partita di 90 minuti, quindi l'Ischia deve dare il meglio di sé sempre, che sia all'Oppido, che sia al Martina Franca. E scusami se ti interrompo anch'io, volevo precisare una cosa, anzi volevo ricordare una cosa a vantaggio di chi ci segue. Noi per domenica abbiamo fatto un'iniziativa in accordo con la società, praticamente tutte le persone che verranno al campo troveranno dove c'è il banco, dove vendono le sciarpe, tutti i gadget dell'Ischia, troveranno due hostess che raccoglieranno delle offerte per delle bimbe che ci sono al Piemonte della Misericordia a Casamicciola, perché sono state abbandonate due bimbe, una di 2 mesi, una di 5 mesi. Io in settimana sono stato lì a trovarle, vi assicuro che a parte il fatto sono due bimbe meravigliose, ma necessitano di tante cose, dai pannolini, dai generi alimentari di prima. Beh, comunque c'è gente che già lo fa ogni Natale, a Pasqua, lo fanno. Quindi diciamo, al campo adesso ci sarà questa iniziativa, quindi non c'è bisogno, perché già c'è tanta gente che comunque si occupa del Piemonte della Misericordia e delle suore che si occupano di questi bambini, questo bisogna dirlo, perché non è la prima volta che facciamo, che si sono fatte raccolte in termini economici effettuate comunque spese nei vari supermercati, quindi si è portato questo tipo di supporto agli ospiti di questa struttura. Comunque queste iniziative ben vengano sempre, e quindi domenica sul campo una 5 euro non è niente, insomma, sì, sono bazzicole rispetto a quelli che sono poi i problemi seri, quindi invitiamo tutti nelle proprie possibilità di fare questo piccolo sforzo economico, perché le persone che sono, diciamo, meno fortunate di noi. Ringraziamo anche la società nella persona del dottor Crisano, che ha messo a disposizione comunque le hostess. Allora, Ornelle. E le ornelle, assolutamente, che vanno sempre ringraziate. Dobbiamo ringraziare anche uno sponsor che ha dato una mano questa settimana, il ristorante Pirozzi, la persona del tifoso Domenico Mattera. E ringraziamo lo sponsor, lo chiamano il Calamaro, se non mi sbaglio. Visto che lui ci sente, se ci fa un colpo di telefono 081 98 92 85 lo contattiamo noi, perché e questo ci fa piacere, perché comunque è un ragazzo che crede nel progetto, è una persona di una certa sensibilità, questo lo possiamo comunque sottolineare. No, pure io credo che è veramente speciale. E poi abbiamo stasera il tema della nostra trasmissione. Ivan, quando è nato il calcio, compare il football sull'isola d'Ischia? Vediamo un pochettino. Adesso tra poco Pierangelo inizierà un'interessantissima analisi, perché poi tra le altre cose anche io lo so. Abbiamo parlato del grande professor Pietro Ferrandino, compianto, e poi dobbiamo anche valutare il fatto che il padre di Pierangelo ha giocato con la gloriosa maglia dell'Ischia ed è stata una sgusciante ala sinistra. Ci domandiamo dove è uscito questo figlio, che è proprio quanta notte da best da portare, tutti lunagini. Allora, voglio dire solo l'ultima cosa, poi lascio la parola a Pierangelo su questa cosa interessantissima. Il tema di questa settimana, così come le settimane scorse abbiamo fatto partecipare i radiospettatori. State sereni e rilassatevi. Noi chiediamo, secondo i nostri amici di Facebook, qual è stato il flop. Quindi qual è stato il flop più grosso che si ricordino della storia dell'Ischia? Io rispondo già, per me negli ultimi anni quello che mi viene in mente è stato la rosa. Ciro, a te? Mamma mia, sei abbuccato, certo, mio cugino. Aggrottaggio, che ha fatto? Sei buccato. no, la per Rosa me, che per vende me, con allora, credenziali notevolissime. Era stato allora, se dobbiamo, se dobbiamo parlare degli ultimi anni di Serie D, per me il più scandaloso è stato Guzman. No, non sono d'accordo. Là ci sono state, per me si bagnano. Ma sai perché? Io sai perché mi rimane. Quel ragazzo non prende. No, ma guarda, mi devi credere, un giocatore che non già fa manca esultano. Non lo so come. Intanto il gol, se tu l'hai fatto perché c'era lui lì. Ah, cioè, che facevo pulastra a mezzo là. Facevo pulastra. No, grandissimo flop della storia dell'Ischia. Vabbè, ce ne sono tante. Non è che ne. Da Buzzone a Budruni. Emilio Budruni. Fa la guerra. Pure fece un gol contro il Chiedi Dezza, una punizione. Risa ha guardato 3 secondi a Ischi. Qui parla di Risa, che sono state 3 minuti a Ischi. Risa, quando mai ha giocato Risa? No, cioè, no, sono stati però dall'eccellenza tantissimi. Celestino, te lo ricordi? Ma non era male, quando mai ha giocato Celestino? Non faceva giocare. E quando faceva giocare? Entrava. Prima di tutto per aspettare Celestino. Ma lui è Santucci. Non poteva giocare Celestino, dovevano aspettare il transfert. Quindi non era bravo, pace, croce, 25, questi erano, non incominciamo a dire Celestini, cose che no, ce ne sono. Che poi adesso non me ne vengono dalla Serie C, però negli anni di eccellenza, dai vari Mazzucchillo, cose, voglie che ce ne stanno, grazie a Tirino, a quel tiro di Tirino, te lo ricordi? Era Tirino. Arzano. Stavamo io e Raffaele e Michele Magone. No, ingiustissimo, no, all'Aquila. Io stavo all'Aquila. E vince. E comunque, questa è la situazione relativa a quanto. Queste cose lasciano il tempo che trovano, perché poi qui la gente si sbizzarrisce nelle antipatie e nelle simpatie. No, però io devo dire la verità. Io cerco di, se uno volesse incominciare a fare, ci avrebbe da dire anche su qualche allenatore, insomma. Perciò cerchiamo di non di non enfatizzare polemiche. Però io ti posso garantire una cosa a voi e tutti gli ascoltatori, che quando vado a contattare qualcuno, perché a me piace chiamare per farli intervenire in trasmissione, tutti veramente portano un grandissimo ricordo sia di Ischia come piazza tifoseria che come squadra. Quindi ad esempio oggi ho chiamato a Marco Libassi, che nonostante abbia giocato una sola stagione porta con sé un grandissimo ricordo dell'Ischia, e lui diceva che non poteva intervenire stasera perché non so, erano una squadra di basket, quindi non poteva intervenire, però ha promesso che quanto prima sarebbe intervenuto. Però quello che volevo dire è che praticamente tutti quanti portano un grandissimo ricordo di Ischia. Vabbè, questo poi sicuramente, perché a Ischia si sta bene. Però tu quando sei ricordato di te? Gli faccio nomi, Ivan Utarallaro, dice Ivan te ne aveva 3 anni, in giovane neanche probabilmente, no. Io c'ero, quindi è normale che si devono ricordare. Poi mai ci stavo pure io, però eri più ragazzino, ci sono una differenza, quando la dire, 32, quando la dire, 28, quando la dire, 33, 35, sono la differenza di 7 anni, ma tutti quanti si ricordano di te, ma perché si ricordano? Ma si ricordano di te perché io sono sempre stato presente, a differenza di qualcuno. Ma no, perché tu non è perché si sia, perché ma io già ci mai avuto a che fare con nessuno, io non uscivo con nessun giocatore. Tu uscivo con Ferfiere. Io non uscivo con nessun giocatore, non avevo a che vedere con nessuno, si ricordava di me perché gli va là e criticavo come faccio costantemente quando l'Ischia non mostra impegno. Poi a differenza di qualcuno che continuamente dice serenità, è per colpa di quella serenità ci siamo trovati a questo punto. Già, perché si ricorda di sì. Che saltarono che va sciacca l'Arezzo, cose, cose. Mai fatto una cosa del genere. Pazziana, mai fatto una cosa del genere, stupidaggini che se sono. Capitolo ottavo, vai, però, capitolo comunque, ottavo. Il calcio di Ischia, questa sempre questa dalle ricerche di Pietro Ferranino, il Luguine Calico comincia ad essere praticato in questo sport, devono risalire ad Ischia Ponte, tra Ischia Ponte e Laccamino. Il periodo nel quale esso compare in queste zone deve risalire con grande probabilità alla fine della Prima Guerra Mondiale. Non è possibile affermare con certezza dove arriva prima. Nella zona del cosiddetto Ponte di Legno, costruito a Via Pontano all'inizio della Mandra, si danno appuntamento alcuni reduci che si divertono a tirare i calci ad una palla. Quindi praticamente, a differenza di tutto quello che si crede, insomma, che si dice, non è il 1920, cioè ci sono stati, adesso le date qui, enfatizziamo pure queste date, il 28, il 22, il calcio inizia alla fine della Prima Guerra Mondiale. La prima squadra di calcio di cui si ha notizie dovrebbe essere la Rubor, la società sportiva Rubor. Queste notizie le attingiamo dal il volume primo di Pietro Ferrandini, il compianto professore di tedesco Pietro Ferrandini, La storia degli sport isolani. È un libro che giustamente Maurizio Messina ci ha invitato a prendere. Onestamente avevamo dimenticato l'esistenza di questo libro, un pochettino in maniera, diciamo, non tanto, io la definisco decorosa, perché comunque qui c'è realmente la storia degli sport isolani, tutti coloro che sono appassionati, insomma, che conservano anche il piacere di sapere quello che è lo sviluppo dello sport ad Ischia, deve per forza di cose incontrare questo libro, che è stato pubblicato nel 1990 da Piero Ferrandini, ed è un volume bellissimo perché dà tante informazioni e anche dettagli particolari. Ivan, ti vedo ridere, perché? Why? Sta avvicinando Ivan. A parte Ivan. Allora, dicembre 90. Sì, nel 90. No, leggevo. Vado 30.000 lire. No, questo, devo dire la verità, fu un dono, siccome il professore Ferrandino era stato anche un mio professore di tedesco, ed è una persona, a parte adesso abbiamo usato questa gestione diverse volte, molto sensibile, avendo citato mio padre, mi regalò il libro dicendo che comunque c'era anche il nome di mio padre presente, e quindi mi fece omaggio di questo libro, e io lo conservo gelosamente. Ma come mai i nostri amici tifosi non prendono il telefono e chiamano? Ma questo non lo so, comunque sono degli scorretti. Cercano sono sempre... scorreggevoli proprio, no, sono scorretti perché si deve trincerano, poi si vede Gennaro Pilato chiama Gennaro Pilato, infatti la trasmissione cercate di collaborare, perché comunque non è che qua siamo solo noi tre, siamo tutti, questa è la trasmissione dei tifosi dell'Ischia, quindi se avete necessità, se avete bisogno, se sentite la necessità, ripeto, di fare qualche domanda o di fare un intervento rispetto a quelle che è la nostra fede, la vostra fede, la fede di udire tutti, qua siamo a disposizione di tutti. O siamo solo tutti e tre di voi, se capisci che San Valentino e siete tutti impegnati a fare altro. Comunque adesso Mauro, c'è musica adesso, lanciamo musica, poi dopo avremo un collegamento con il presidente Carlino e a seguire con buon cuore, quindi musica maestro. Non quelle che ricordo io, ma quelle che trasmette il cuore. Ma che preghiera è gettata contro i muri, tra i santi disperati il vino di questo tempo alcolico. Questa sono io. Ringrazio Dio, per le foto che spedisce ai nostri giorni, per questa voglia di respirare, soffocare il mondo e poi lasciarlo andare. Ringrazio Dio, dacci ancora sangue di giovani vite, le finestre aperte, chiari spari al cielo. passeggia qui. Ti pare che sbagliamo? Ti avrei capito subito, avrei capito me. Per quelli che oramai non mandano più annunci d'amore e vita sui giornali, io canto questi brividi, questa sono io. Ringrazio Dio, ringrazio Dio per quest'anima pesante contro il petto, per questa voglia di farsi male, soffocare il mondo e farsi innamorare da un altro Dio. Ringrazio Dio, dacci ancora sangue di giovani vite e al mio uomo che è fuggito via, nemmeno un po' da. Abbiamo in linea il dottor Carlino. Dottor Carlino, buonasera, Radio Treccia. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, dottor Carlino. Presidente Carlino. Presidentissimo, presidente, speriamo, presidente al proprio... quanto prima. Allora, presidente, com'è la situazione? Ci sono novità in seno societario? Queste riunioni che si stanno susseguendo stanno portando sicuramente a buon fine, giusto? Sì, sono ottimista, anche se non c'è ancora nulla di concreto. Proprio oggi abbiamo fatto un altro incontro con il sindaco De Vivo, che diciamo si sono resi disponibili a trovare nuovi soci di Schitani o non, per far sì che il mio 51%, io entrerò con un 51% di prelazione per la quota, però fino a quando non troveremo degli imprenditori, io ho detto che il 49% deve essere fatto da imprenditori e non da sponsor. Perché certo, per me la società certo. Non può vivere di sponsor, lo ribadisco. Certo. Se dall'altra parte trovo il 49% di soci che vogliono investire nel calcio, va bene, altrimenti troveremo un'altra strada che potrebbe essere anche quella di trovare il 70-80% da parte nostra di altri soci. Certo. Però io ci terrei che questo assetto societario rimanga, perché ha lavorato bene, però devo avere più garanzie per far sì che il mio gruppo entri in una società che sa quello che vuole, sa quello che vuole fare in futuro. Certo. Certamente questa è una cosa che ci faccia piacere sentire, caro dottor Carlino, perché sa, molte volte qui c'è un tantam, soprattutto a Ischia, che siamo bravi a fare molte chiacchiere. Le chiacchiere facciamo poche, oggi siamo stati abbastanza concreti. Gio sa il fatto suo, sa come fare, certamente se andiamo in C, sicuramente in C1 o C2 che sia, troveremo più soci, però noi non possiamo ipotizzare eventuale socio imprenditore da far entrare con la garanzia della C. Lo sport è bello anche per questo, che non ha nessuna sicurezza. Certo, la certo. Sicurezza dobbiamo averla a livello societario. Poi io credo che quando c'è la società solida con dei progetti seri, avvengono anche quelli sportivi. Certo. Ciro Curci, voglio fare una domanda. Presidente, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Lei, io ieri le ho detto, è praticamente la migliore garanzia a Ischia in questo momento è Giosi Ferrandino, perché noi abbiamo avuto tante esperienze con altri imprenditori e le posso garantire che le sicurezze che può dare Giosi Ferrandino ad oggi sono il massimo che la piazza di Ischia le può dare. Quindi noi come tifosi e lei come imprenditore o futuro presidente, quello che sia, a una persona sulla quale può veramente contare pienamente, perché le ripeto, ieri le ho detto meglio avere il sindaco anziché 10 imprenditori ischitani. Lo sai che mi hai trovato d'accordo, perché se non c'era Giosi Ferrandino io infatti sicuramente non avrei neanche ipotizzato l'idea di entrare, perché stavo bene a fare il presidente onorario, sì, faccio lo sponsor e stabilisco ogni anno quanto voglio, certo, investire, certo, in Ischia Calcio senza nessun obbligo. Quindi, certo, questo è un grande applauso che va al sindaco, perché vabbè, ma in questo caso io, il tifoso Giuseppe, no, ma io infatti ieri, come dicevo ieri a Carlino, perché ieri ci siamo sentiti per chiedergli se faceva piacere intervenire questa sera, io dicevo proprio questo, al di là del fatto che ad oggi porta la carica di primo cittadino, Giuseppe Ferrandino è sempre stato un tifoso dell'Ischia e noi lo ricordiamo in tempi passati quando lui era sindaco di Casamicciola e veniva a vedere le partite dell'Ischia in Eccellenza, quindi ciò sta a significare che comunque il sindaco è presente ed è un tifoso. Le solite malelingue dell'isola dicono sempre che adesso così, però evidentemente adesso ha trovato persone serie con la quale poter intraprendere. Presidente, io le voglio fare una domanda per stemperare un po' i toni riguardo a quella che è la condizione economica, perché noi da tifosi ci preoccupiamo un po' troppo spesso di situazioni che poi non conosciamo perché a fondo. Nel passato, purtroppo, esatto, nel passato c'è stato... riguarda queste tre partite, lei cosa e come vede, insomma, l'impegno che deve affrontare l'Ischia? Perché sappiamo benissimo che sono partite fondamentali per ci giochiamo gran parte del campionato, 70%. Io proprio oggi Nicola Chissano mi ha passato al telefono scarlato, ho detto: capitano, tu lo sai che cosa ci aspettano queste tre partite? Sai che cosa vogliamo? Presidente, state tranquillo, ce la mettiamo tutte per fare 9 punti, l'obiettivo è quello, perché non possiamo più perdere punti, certo, ne abbiamo persi qualcuno, pochi, effettivamente non è che ne abbiamo persi molti, però quei pochi ci stanno pesando la classifica, quindi sì, dobbiamo recuperare quei pochi che abbiamo perso in queste tre partite che saranno veramente decisive. Facciamo un appello anche ai tifosi, che a Francavilla saremo in tanti, perché là ci giochiamo quasi mezzo campionato, quindi dobbiamo essere facciamo un ultimo sforzo, faccio un appello a tutti i tifosi di venire a Francavilla. Sicuramente saranno presenti, però caro Presidente, purtroppo capita di mercoledì, molti non possono lasciare il lavoro, però tanti dovrà fare il possibile per essere presente, sicuramente, assolutamente. Ognuno che è ci una tiene. Partita abbastanza delicata e decisiva per noi. Sicuramente il Francavilla la giocherà col sangue agli occhi, signore. Ma noi ancora di più. Ha portato Scarlato, che ha detto che stanno bene, che la squadra sa quello che deve fare. Ma situazione quindi... infortunati come, Presidente? Ma da quello che so io, che sono tutti recuperati, tranne forse De Rosa, che ha bisogno ancora più e di meglio. Gli altri sono tutti disponibili. E io lo sapete che aspetto con ansia il ritorno di Matteo. Perché per me Matteo nelle prime 10-12 partite è stato determinante. No, ma Matteo è un giocatore, io infatti nell'Ischia più alta, quindi certo, con certo, il ritorno di Matteo possiamo avere veramente un attacco molto importante. Ma intanto è vero che io oggi l'ho visto in campo e l'ho visto abbastanza pimpante, sono stato molto contento, perché il migliore acquisto in questo momento sicuramente è Matteo per anche l'Ischia. De Rosa, sicuramente, assolutamente, assolutamente. Fino a quando ha giocato ha fatto sempre la parte, sì, da leone, sì, assolutamente. Infatti la sua assenza si nota purtroppo in maniera pesante. Impicciandoci un po' dei fatti del Martina, lei come la vede questa squadra? Guardi, io da quello che ho visto, perché le ho viste entrambi, sia la Sarnese che il Martina, a me all'inizio faceva paura più la Sarnese come tasso tecnico che il Martina. Il Martina noi gli abbiamo dato 4 punti, ma credo che se le vincevamo tutte e due stava nella norma, perché non nessuno abbiamo poteva credere allo scandalo, né all'andata né al ritorno, quindi un po' di fortuna ci fanno stare 2 punti sotto se vinciamo domenica, però non ho visto una squadra superiore all'Ischia, assolutamente. Io lo dicono tutti e lo confermo io, solo noi possiamo perdere questo campionato. Presidente, per un quanto po' riguarda per fortuna, noi siamo stati anche quelli più sfortunati fino ad oggi, sicuramente abbiamo 2 giocatori per ruolo tutti forti, cosa che neanche in Serie A hanno, in prospettiva in paragonabile alla Serie A, quasi Serie A. Noi abbiamo 2 giocatori per ogni ruolo che nessuno ha, però purtroppo addirittura è capitato qualche volta che sono infortunati gli stessi giocatori nello stesso ruolo. E qua poi lo sapete, il calcio è anche fortuna. Noi forse abbiamo un debito che se ci diventa credito, credo che vinciamo tutte le partite. Presidente, per quanto riguarda la partita di domenica Campania-Martina, lei... Di sabato, Campania-Martina, come vede questa... Il Campania verrà... sarà vicino, poi anche da fare da iettatore a questo partito, poi... che prima o poi deve perdere. Poi spero... Il Campania per me è un'altra squadra tosta, di ragazzi motivati, ragazzi che fanno questo sport per passione, lo sapete come giocano questi ragazzi. Da Presidente, 4, portate una insieme, bella tartaruga. porta fortuna. Ma l'adattatura l'hai messo anche un bel corno. L'oiettatore, ma una partita la devono pure perdere questi. Che miseria, mamma mia. Va benissimo. Presidente, noi la ringraziamo sempre, molto gentile e disponibile. Buon San Valentino. Altrettanto a voi, grazie. La nostra amata è l'Ischia, presidente. Lo sappiamo, Ischia sia come isola che come sport. Amiamo tutti. Grazie, presidente. Ciao, buona serata. Arrivederci. Eccoci qua, queste parole comunque ci fanno. Carlino è un grande. No, a parte il fatto che ti mette proprio allegria. Serenità. È una persona che è una persona che ti mette allegria, a differenza di qualche musone è sempre ottimista, sempre una persona positiva, mi piace tantissimo. Un carisma incredibile, grandissimo carisma. Riesce a rasserenarti in ogni frangente. Mi piace tantissimo, anche perché noi veniamo da anni, quasi, diciamo, che dove si trova? In Cile si trova quel buco che va per 200-300 metri sottoterra. Eccola, la perla di Pierangelo. Noi veniamo da quei momenti, veniamo da quei momenti neri, da quei momenti grigi, azzurri, cioè una scala cromatica indescrivibile. L'arcobaleno. Però sì, no, di più di un arcobaleno, è qualcosa che ancora deve esistere, insomma. Comunque, che veramente, Carlino per me è un grande. È una persona da tenere stretta, da coccolare, perché veramente con lui ci può portare. Allora, un appello a tutti gli imprenditori solani. Ma quanti ne dobbiamo fare più di appello? L'appello è importante, però a parte questo, a mercoledì a Francavilla, questa è la cosa, che noi tifosi dobbiamo e possiamo fare. Alla fine noi per fare gli appelli agli imprenditori non ce la facciamo più, ci sta chi di dovere raccogliere, me ne sono fatte 10 di trasferte questa di mercoledì, non so dirti perché gli impegni familiari sono quelli che sono. Ragazzi, scusate un attimo, abbiamo una telefonata molto illustre, molto importante, ci sono novità. Gennaro, novità. Allora, Gennaro. Buon San Valentino, Gennaro. Auguri, Gennaro. Grazie a chi lo aspetta. Notte di pioggia ed è San Valentino. Gennaro, con la pioggia che lava le bestemmie in città. Gennaro, hai capito che hanno scritto su internet? Hanno chiesto che dobbiamo chiedere a Carlino di fare le mutande giallo blu con il leone che ruggisce. Secondo me l'hai scritta tu sta cosa. No, in base su una cacata. Non usiamo questi epiteti, stai serio. Parlami cose serie, Gennaro. Allora, che dici? Come la vedi? Un po' l'intervista di Carlino. Sì. Che te ne è parsa? Come al solito, molto ottimista. Molto propositivo, ecco la parola. E speriamo, Gennaro, che queste cose, questi buoni propositi poi arrivino a sbocciare in qualcosa di positivo. A Carlino, sì. Io vorrei dire a Carlino, poi quando lo avrò a quattro occhi glielo dirò, che lui non deve fare assolutamente, come posso dire, affidamento su imprenditori isolani, perché imprenditori isolani non ce ne sono. Imprenditori ci sono, non c'è la voglia di intraprendere un tipo di discorso e di investire nel sociale. Io te l'ho detto la volta scorsa, che tu e tuo fratello poi mi avete aggredito. Ho detto, l'unica persona che è in grado di poter diciamo tra virgolette gettare nella mischia questo imprenditore è il sindaco. Perciò prima diceva non Pierangelo, facciamo questi discorsi, caro Ciro, perché nel senso che comunque lì il sindaco ha il suo carisma. Assolutamente. Ma il problema, sai qual è, Ciro? Sì. Il sindaco può avere il carisma, ma attorno al sindaco nessuno ci si vuole mettere. Allora, Carlino, secondo me, se vuole fare calcio a Ischia, non può fare affidamento al tipo. Vabbè, ma lui è stato molto chiaro, ha detto sì. Io mi auguro che la chiarezza di Carlino la porta avanti e si fa il suo bel gruppo. Gennaro, io l'ho detto, lo ribadisco e lo ribadirò. La garanzia più grande è il sindaco a Ischia, perché il sindaco può garantire quelle cose che Carlino che, noi, che noi sappiamo, perché Carlino. Vabbè, ma ragazzi, questo bisogna chiarire una cosa, scusatemi, che io lo volevo dire anche l'altra volta. Questa è una trasmissione dove si parla dell'Ischia Calcio. Noi parliamo dell'Ischia Calcio, del sindaco in relazione all'Ischia Calcio. Infatti, è normale. Aspetta, perché molti, molti cattivoni. Non facciamo politica. Molti cattivoni possono pensare che il sindaco. No, fatemi esprimere questo che volevo dire. Molti cattivoni possono pensare che il sindaco si interessi solo dell'Ischia Calcio. Questa è una trasmissione dove si parla dell'Ischia Calcio. Il sindaco di Ischia fa parte integrante. È parte integrante di un progetto, però il suo compito di sindaco, per quanto mi riguarda, lo svolge anche in maniera egregia. Per quanto riguarda questo non vuole essere una condizione né una svionata politica né niente. Qua però bisognerebbe sottolineare sempre che noi parliamo dell'Ischia Calcio in relazione a quelle che è allora, io quello che voglio dire è una cosa: a Ischia Imprenditori che si intende? Si intende che è l'albergatore l'imprenditore, io non vedo altri imprenditori. Vabbè, ci sono anche, c'è Lauro, ci sono anche c'è Dabundo, armatori. Tu devi capire una cosa, caro Gennaio, se non erro, una volta Alessi, non mi ricordo l'articolo, quindi la fonte non te la posso garantire, però mi ricordo che Alessi, che il traffico di trasporto marittimo, turistico, ad Ischia, nel Golfo di Napoli, è secondo solo ad Hong Kong. Quindi Ischia, Capri, Procida e Sorrento muovono dei capitali enormi, quindi queste persone farebbero bene a restituire un pochettino, se non è l'Ischia Calcio, e noi qui parliamo dell'Ischia Calcio, quindi ci interessiamo dell'Ischia Calcio, però se non vuole essere l'Ischia Calcio, che sia un teatro, che sia una struttura ricreativa, che sia una struttura che vuole, di qualsiasi genere, ma qualcosa da restituire, da rendere a questo territorio che è a loro da tanto, perché non devono passare sempre come le vittime della situazione o come i fruitori i possessori dello scibile e di tutto quello Carlino che poi prima ha fatto una giusta affermazione dicendo adesso gli imprenditori di Isoan, se devono entrare in società, devono entrare adesso, non quando se ci saremo in G1, perché poi dopo venne Perugia, venne Aternano, venne mille persone a Ischia, come sono venuti quando siamo in giù, e vengono a dormire a casa mia. Bravo Gennaro, bravissimo Gennaro. In questi alberghi famosi di questa catena alberghiera o di che altro, non facciamo nome, poi... non interessa. No, a noi non interessa. Noi non ci interessa, però questo è il discorso. Però sicuramente non vengono né a mangiare a casa mia e non vengono a dormire a casa mia. Chi ne usufruisce il bene di questi soldi che poi arriveranno da questi tifosi che verranno? Sono sempre gli albergatori, però loro vogliono il piatto già messo a tavola. Perché Carlino dice, oh, è bella a Trasi quando stanno in Giun? Giusto. Dopo vengono giusto. I tifosi da fuori, vengono mille persone, lo vanno a dormire, lo vanno a mangiare. Comunque, Gennaro, io guarda... Allora io dico a Carlino, se io fa un pallone, Carlino, lo faccia col suo gruppo, fa benissimo. Vabbè, vado avanti. Fa benissimo, perché io poco credo nell'imprenditoria ischitana, me lo augurerei, ma poco ci credo. Spero che i fatti mi smentiscono, ma poco ci credo. Gennà, parliamo tecnicamente 2 minuti e poi ti lasciamo. Novità, Gennà, queste 3 partite come le vedi? Gennà, Caraglia ci sarai, scusami, Gennaro. Dobbiamo fare 7 punti. 7 punti? Io vado... 7 punti, ho fatto i miei calcoli, andiamo bene. Siamo fatti con un pareggio del Martino nelle prossime 2 partite. Ma a Francavilla Insigni ci sarà il Gennarino? Probabilmente no. Lavoro. Ma se devo dare una percentuale, l'80% no. Va bene, dai, Gennaro. Con margini di cerchiamo. Vabbè, io ti capisco che tu hai un'attività. Se ognuno di noi ha i propri. Sera di domenica era un altro discorso, sicuramente. Sicuramente. Comunque. Qua c'è anche il sano vecchio cuore che necessita di tranquillità. Io onestamente una tensione già a pensarci mi sta 15 giorni che mi sta accedendo. Ma sto Francavilla a chi tiene? Sto Francavilla che fa? Sto Francavilla che... No, ma... Stai sereno. No, io non sono niente sereno. Voglio, voi state voi che fine avete predicato la serenità. Io sono sempre stato preoccupato, lasciatemi nella mia preoccupazione. Però ma noi ti vogliamo bene, per questo cerchiamo di spronarti. Io però Mauro Cozzolino ha detto si vince facile. Non vi dico l'ultimo pronostico che ha fatto Mauro Cozzolino, come è fornuto, meglio come sto zitto. Vabbè, Gennà, ti salutiamo. Grazie. Ciao Gennaro, ciao Gennaro. Se hai novità faccele sapere sempre. Vai a festeggiare il tuo San Valentino. Io spero. Malandrino, Comunque speriamo che Aldo Marina, se Marine ci sta ascoltando, se cerca di contribuire anche in maniera, diciamo. Cosa volevi chiedermi? Ho sentito Aldo. Io? No, hai detto, oggi hai lasciato un commento su Facebook, hai detto che sono molto romantico. Sono un romanticone. Come amo mia moglie, pure l'Ischia. Muoviti tutte e due, forza. Ciao Jennifer. Allora, Piero, tu avevi qualche altro paragrafo, qualche altra cosa? Vabbè, allora adesso ci mettiamo in contatto con Enrico Buonocore, perché penso che sia una telefonata che tutti stanno aspettando. Mauro? Oh là là là. Eccoci allora, qua. Piera, parlammici sinceramente, no? Tu ti inizi... perché pure io... Pure io sento... Vabbè, comunque tu sta partita, tra tutte e tre le partite, se temi molto questa di Francavilla. Io sì, la temo tantissimo, in maniera... Ma per cosa ti induce in questo? Una bestia nera per noi. Vabbè, negli ultimi due anni abbiamo sempre vinto. Non lo so, cerco di essere ottimista. Io nel mio DNA regna il pessimismo. Sono un pochettino pessimista. Adesso, però, onestamente, rischia la squadra ce l'ha. Se gioca come ha giocato a Brindisi, certamente dirà la sua. Però io temo questa partita un po' per i sei gol fatti, anche qua non è stata una questione di cattiveria come qualcuno, perché quelli i sei gol sono venuti il primo tempo. Sì, se l'Ischia veramente voleva essere cattiva, anziché sei ne faceva 12, perché ti ricordi al 40esimo l'Ischia ha smesso di giocare. Quello volevo dirti, quindi non è stata una carenza dalla parte loro. Purtroppo è andata così. Allora, scusate se interrompo, Enrico. Ciao. Buonasera Enrico. Ciao Enrico, buonasera. Ciao. Qua ci sta Ciro Curci e Pierangelo Pesci. Tutto a posto, Enrico? Com'è andato l'allenamento? Bene, tutto a posto. Allora, come si chiama questa squadra, Enrico? No, questa squadra si chiama Ribelle. Ah, come te allora? Proprio ti si addice per chiudere la carriera questa bravo, squadra. Bravo. La cosa comunque che ci scherziamo, ci conforta e che ci fa piacere sempre ricordare che veramente è stato, a parte la qualità di Enrico tecniche, ma anche sotto il lato umano e soprattutto la partita di Ercolano dove ci mise tutto il suo per poter portare i tre punti a casa, insomma. Enrico, quest'anno siamo sempre come al solito soffrendo perché ci troviamo due punti sotto al Martino. Soffriamo sempre, però in piacere, no, dai, rispetto agli ultimi anni. Senti Enrico, ma ci stai seguendo comunque? Sto seguendo. Vabbè, è una bella sofferenza, nel senso che l'Ischia può vincere perché adesso è una società importante, no? Hanno fatto una squadra, secondo me negli ultimi 10-15 anni è la squadra più forte della Serie D negli ultimi 10-15 anni. Io non mi ricordo una squadra forte come l'hanno fatto questi qui, la società nuova che hanno fatto, la squadra che hanno fatto adesso. Ma tu parli di Ischia o in generale tutta la Serie D? No, proprio l'Ischia negli ultimi 10-15 anni, il girone dell'Ischia, una squadra forte come l'Ischia non c'è mai stata. Ci manca un buon agore però. Hanno una squadra veramente poco, giocatori importanti. C'hanno 4-5 attaccanti tutti forti, a metà campo possono giocare come vogliono, quindi dietro hanno una squadra. Poi ho visto una partita per televisione con la Casertana. Sì, c'hanno tutti i ragazzini, sono tutti molto bravi. Sì. Quindi è una squadra che può vincere, insomma, deve vincere. Sicuramente. Secondo te questi cali di concentrazione da che cosa sono dovuti secondo te? Perché viene snobbato l'avversario o perché tu che sei un grande calciatore, cioè perché l'Ischia ha questi momenti di amnesia? Ma questo non te lo so dire perché dovrei vivere la situazione, cioè io però non dovrebbero capitare perché insomma sono giocatori talmente quello è il fatto che hanno vinto molti campionati. Però insomma è una squadra che poi ha cambiato, poi nel tempo ha preso ancora altri giocatori, adesso ce n'ha fuori 4-5 che sono giocatori importanti, delle volte può anche capitare, perché se capita spesso è un problema della squadra, se capita ogni tanto... No, perché ad esempio l'Ischia le partite, diciamo, clou, non è mai venuta a meno, però ecco, ad esempio contro le piccole facciamo sempre quel mezzo passo falso, allora... però si dice quello l'allenatore, ma questo ti dà... se ricordi bene anche in eccellenza, ma pure quando c'era... perciò glielo sto chiedendo con Cicciano, con la Fragolese, perché ad esempio noi se ti ricordi noi abbiamo facciamo fatica, però noi vincevamo, sì. Abbiamo pareggiato, penso, con l'HMN in casa, con la 3-3 con l'HMN, sì. Che c'eravamo portiere senza i bracci, perché con l'H meno fu clamoroso, Enrico, con l'H meno, ma pure a bolla. Sì, vabbè, dopo all'inizio siamo partiti male, però noi avevamo una squadra molto forte. A Fragolese 3, Buonocore 3. No, però eravamo una squadra forte che alla fine siamo riusciti a vincere, ma perché poi dopo noi lo volevamo, ma tutti, anche quelli che non giocavano. Per assurdo, caro Enrico, adesso noi abbiamo la partita col Francavilla e tu non giocavi quella partita in Serie D, stavi lì con noi e perdemmo la partita a Francavilla, se ti ricordi, 2-1. Sì. Sul rigore segnò Musella e dopo Chisena e Del Prete. Una partita difficile, ma è un campo orrendo quello là, proprio. All'andata l'Ischia ha vinto 6-1. Sì, 6-1 al 40esimo del primo tempo. Sì, quindi adesso questi qua vorranno. Però l'Ischia, io ci sono delle partite che ti possono cambiare il corso in un'annata, no? L'Ischia adesso, Martina ha vinto domenica, ha giocato, l'unico che ha giocato è stata Martina, no? Sì, no. Sì. Quindi l'Ischia adesso deve andare lì e cioè deve vincere. Perché noi, ti ricordi, pure l'anno d'eccellenza c'era l'Inter Napoli che... Io questo ti pareggiamo 1-1. Ti dico che noi loro sì, stavamo sempre, te l'ho detto io. E noi sapevamo il risultato loro. Bravo. Noi giocavamo con una pressione non indifferente. Bravissimo. Noi dovevamo sempre vincere per superarli di nuovo. Infatti quello che ti volevo chiedere era questo, nel periodo di fine gennaio, inizio febbraio, più o meno l'Ischia ha vissuto lo stesso periodo che stiamo vivendo adesso, cioè che perdiamo a Caserta e pareggiamo in casa sempre con l'Inter Napoli, che allora era la co-capolista con l'Ischia. Però poi dopo, scusami se ti interrompo, dopo quel pareggio con l'Inter Napoli, il presidente entrò con i carri armati negli spogliatoi. Vado a parlare, Enrico. Sì, scusa. Io volevo fare la domanda, che praticamente si stava vivendo il periodo Buonocore come si è vissuto il periodo Sarli, se ben ricordo. È vero? Ma io no, beh, è un po' diverso. Perché lui si arrabbiò, Basentini si arrabbiò perché ne avevamo pareggiato, non c'è una cosa, ma io leggermente non ho mai... È differente, io non hai messo mai in discussione la tua presenza lì a Ischia, certo, questo sì. No, lì l'ha fatto anche per spronarci, certo. Noi in quel momento lì lui l'ha fatto proprio per venire come società, come perché... Per dare il senso di autorità rispetto a quella che è la squadra. Secondo me lì c'era anche un po' messo paura, perché non cominciamo più il campionato. Certo. Però noi non avevamo, talmente la situazione in mano che io non avevo paura di non vincere. Sicuramente sapevo che dovevamo soffrire fino alla fine, perché questa squadra, l'Inter Napoli, fino alla fine... Era proprio il giorno di San Valentino di 6 anni fa, proprio, mi ricordo bene che era il 14 febbraio del 2001. Che ci fu la sciuta. Da lì, se tu te la ricordi, doveva finire 3-4-0. Ah, con l'Inter Napoli, sì. Ma noi, quindi, quando la squadra dopo cerca di fare, dopo poi può capitare di pareggiare la partita come hanno pareggiato noi, che hanno fatto gol su punizione, una palla ferma. Sì. Enrico, qui c'è un tuo caro amico, scusa se interrompo, c'è Ivano Buondonno che ti saluta. Sta qui vicino a noi, quando lo siamo andati a prendere, ma hai da salutare Enrico quando chiamo. Poi c'è una domanda da parte di un ragazzo su internet che ci chiede se magari un giorno ci sarà un tuo ritorno nella dirigenza dell'Ischia, magari. No, questa. No, no, no, abbiamo una domanda. Cioè, no, io seguo l'Ischia con affetto, perché io sono tifoso. No, me ne sono andato via 2-4 anni fa, non doveva finire come... Vabbè, ma quello è il teatrino... Il teatrino, caro no, Enrico. Vabbè, ma io dopo sono andato distinto e ogni tanto mi capitava. Ma però ci sono altre situazioni che sì, sì. No, vabbè. Sappiamo bene. No, io la seguo con molto affetto. So che c'è una società molto importante che vogliono fare le cose. Spero che noi ischitani, insomma, al di là delle critiche, perché è giusto che noi tifosi, perché dobbiamo fare la critica sempre costruttiva, che ci riteniamo insomma cari questa società, perché è una società penso molto importante. A giorno d'oggi avere una società del genere. Perché adesso che chiare luna che ci stanno veramente, lì che è una società importante, che ne parla tutti, ne parla tutta anche qui a, è arrivata anche qui in Romagna, come insomma, una società importante, quindi insomma noi dobbiamo ritornare a fare il campionato professionista, spero già dall'anno prossimo. Perché okay, Ischia, noi l'Ischia è seguita, se le cose si fanno bene la gente risponde sempre. Quindi... E lì, ma come mai hai lasciato il Riccione lì? Ho lasciato il Riccione perché erano finiti i soldi. Ah. E quando poi non ti pagano io... No, perché ho visto comunque stavi giocando ad alti livelli, io poi seguivo. Avevo fatto 7 gol. Infatti. Ti abbiamo seguito pure. Lì fanno qui si fa con pochi soldi, si fa e quest'anno pure lì a Riccione, perché l'anno scorso stavo lì, abbiamo vinto il campionato, sì. Siamo partiti con la stessa squadra, poi piano piano non c'erano soldi. Comunque è strano, perché comunque Riccione alla fine i problemi ritornano in ogni posto e paese, perché Riccione dovrebbe essere abbastanza economicamente. Ma anche qui ci sono grossi problemi con le società, non riescono più a finire il campionato a pagare i giocatori. Quindi noi, come giustamente dicevi poc'anzi, bisogna tenerli stretti. Gli ischitani per 20 anni hanno visto, sono passati giocatori importanti, sono stati degli anni che abbiamo fatto anche la Serie C importante, e quindi le partite l'hanno vista, il calcio lo conosco, certo. Penso che sia molto importante adesso che abbiamo una società seria. Harry, tu sei concordo con noi che praticamente l'Ischia in queste prossime 3 partite si gioca gran parte del campionato? Cioè l'Ischia adesso c'ha una partita in casa con l'Oppido, mentre e poi dopo c'ha mercoledì a Francavilla e domenica sempre in trasferta a Torre del Greco, mentre il Martina Franca dovrà affrontare il Campania a Piscinola e il Brindisi a Brindisi. Però deve stare attaccato, non deve perdere terreno, perché dopo puoi avere perdite, come si dice la parola giusta, la consapevolezza, come sì, si dice? Sì. Devi stare sempre attaccato, non è un problema avere 2 punti o 3 punti a 12-13 partite, non conta niente. Sì, in effetti è una partita poi. È una partita, non conta niente, adesso l'importante è stare attaccati, c'è da giocare ancora 3 mesi di partite, sono state delle volte... Una volta con Messina in un mese gli abbiamo preso 8 punti, poi abbiamo perso campionato all'ultimo campionato. Sì, con l'Avellino. Avete sbagliato il rigore al 90esimo. Sì, siamo riusciti a recuperare 8 punti in un mese, quindi quello non significa niente, l'importante è crederci. Sì. È una squadra difficile da gestire perché sono talmente tanti che potrebbero giocare tutti. Quindi la cosa molto importante è che anche i giocatori capiscano la situazione, che facciano insomma tutti il bene per l'Ischia, anche se non giochi. Brava. In questo momento fare 15 partite, 20 partite nell'Ischia è meglio di che farle a Viribus Unibis a qualche altra parte, insomma. Sì, io ricordo ai tempi dell'eccellenza c'era Barbato, Tessitore, Catam, Tomeo che andavano in tribuna. Ma molto sono stati giocatori fondamentali, che era Denuto, che non giocava mai, caro Denuto. Fondamentale, ma lì è stato bravo l'allenatore, perché noi sulla gestione del gruppo, sì. Troian era numero uno, sì, non faceva parlare nessuno, tutti gli andavano dietro. Spero che la stessa cosa sia con l'allenatore, perché è fondamentale. Questo non lo sappiamo. Pensa un po', Enrico, che qui ci sta adesso Sarli, Manzo, Mazzei, Ercolano, De Rosa, Ausillo, Savio, tutti i giocatori che comunque per la Serie D sono un lusso. Adesso magari non parliamo di grossi livelli. No, ma infatti io dicevo quello perché sono talmente giocatori importanti che è difficile anche scegliere. Certo. Però quindi dicevo questo, che i giocatori devono essere intelligenti. Cioè, alla fine, se tu giochi anche 7-8 partite in meno, però hai vinto un campionato, è una cosa importante. Nel curriculum conta. Certo. Quindi quello dicevo io. Non è facile, però insomma l'allenatore deve essere bravo, i giocatori devono essere intelligenti, perché vuole vincere. Che poi alla fine dei conti i giocatori fanno gli allenatori, perché io non ho mai visto una squadra che non vince i giocatori forti. Se c'è giocatori forti, vinci. Enrico, intanto forti. Sul web continuano a scriverti, ci sono dei tuoi fan che vogliono una maglietta autografata, ci stanno scrivendo. Tu quando vieni di nuovo a Ischia? Bisogna... Non ne tengo più maglietta. La maglia di sotto, Enrico. Ma adesso quando ritorni a Ischia, Enrico? Direttamente quest'estate per Pasqua? Quest'estate, ok. Quest'estate, adesso dopo, se capiterà qualche... da venire a vedere qualche partita... organizziamo qualcosa eventualmente. Anche perché, Enrico, quando ci lasciasti... io facevo la cena lì, da Ciro... guarda che io ho sempre pensato a quello, ma sicuramente è stato un mio errore. Mi dispiace per Taratà, che gli ho lasciato, che devo giocare altri 5 mesi per Franco. Mi dispiace per la gente che veniva al campo. Infatti io ci rimasi malissimo, io non ti nego, caro Enrico, che ci rimasi male, perché... ma io ti capisco, tu sei tifoso, però tu devi... ci sono delle situazioni... Sì, ma dopo ho capito tutto, caro Enrico. Io mi sentivo veramente stare lì a 600 km dalla casa senza fare niente. E poi si poteva vincere pure un campionato, ma in quel momento là, noi come società, come eravamo tornati indietro, noi eravamo al top l'anno prima e dopo eravamo rimasti indietro. Hai ragione perfettamente. E io quell'anno là, a dire la verità, io dissi, vabbè, allora prendiamo 2 giocatori e possiamo vincere. Se la società risponde, non abbiamo i soldi per prendere i giocatori, visto a 700 km dalla casa, se io devo stare lì a 700 km dalla casa a non fare niente, la società mi risponde così, io non era. Però al di là di quello è andato come è andato. Mi è dispiaciuto molto, perché non doveva finire così. Però, anche perché poi tardamente può tornare più indietro. Comunque il ricordo di Enrico Bonacore a Ischia, a parte l'amicizia, l'affetto che ci lega, perché comunque sei un ragazzo di Ischia, è stata una cosa bellissima, è veramente una delizia per gli occhi e per tutti quelli che apprezzano il calcio. Questa è la verità, ed è la cosa più sincera che io posso dire. Io sai che cosa gli ho detto a Gianni quando stava per indossare la maglia dell'Ischia? Ho detto: Il mio sogno più grande, dopo aver visto Enrico di nuovo con la maglia dell'Ischia, è quella di rivedere a Gianni Di Meglio con la maglia dell'Ischia. Diciamo che si sono avverati entrambi. Enrico ha vinto e speriamo che Gianni... Io a Giovanni glielo auguro. Noi insieme abbiamo giocato 3 anni a Messina, abbiamo vinto un campionato. Lui sa che significa giocare a Messina, vincere e andare in Serie B con Messina. Un giocatore importante. Enrico, l'ultima domanda, poi ti lasciamo, perché comunque ci chiedono di nuovo il gol più bello che hai fatto quando sei stato a Ischia. Sempre qual è con stato? La camminata. Sempre... sempre con l'acqua, no, con l'acqua a meno. Perché... l'acqua sono amici, gente, sono ischitano, quindi cioè, era molto bello, no? Perché poi c'è il loro presidente sì. Che la buonanima è fantastico. C'è stato il periodo, dai, lo sfottò cose. Lui è un personaggio genuino che purtroppo non ci stanno più, no? Per me era molto simpatico. Sì. Però insomma, per me fare gol al derby era il derby, anche se era eccellenza, l'H meno. Sì, sì, no, ma hai ragione. Taratà che l'hanno là, dall'altra parte. Eri però quella punizione a Ciccarelli con l'Arsanese. Tuttora... E domenica contro l'Inter Napoli, caro Enrico, è rivenuto Ciccarelli, ha parato tutto. Sì, ma ho letto la formazione che gioca ancora là. Sì, guarda, una cosa disumana. Guarda, appunto, allenatore e cose nuove. Sorrentino che giocava nell'Inter Napoli allora. Ma guarda, una cosa veramente, un gatto. Comunque, la posizione tua. Comunque, quando è venuto, la prima cosa che ha fatto Mazzelletto, fammi avere se si è formata una volta a Ragnatella, allora Enrica. No, ma oggi dopo 6-7 anni, veramente, quando si parla di punizioni, cioè, ricordiamo ancora quella punizione, quella là con la Puteolana pure. Ci mancherebbe altro. Proprio ci mancassero. Vabbè, sono state belle situazioni, è stato un anno e mezzo bello, dai. Eccezionale. Sì, siamo divertiti. Speriamo bene, dai. Enrico, noi ti ringraziamo, grazie, sempre gentile, e ciao, vieni a trovarci presto, poi magari ci andiamo a fare una cena in maniera differente rispetto a quella. Va bene. Ciao Enrico. Ciao Enrico, buona serata, ciao. Buonocore, quando si parla di Buonocore ci brillano gli occhi un po' a tutti quanti. Ma sicuramente, ma poi a me mi dispiace perché poi io, come lui, mi faccio prendere anche da, lui è impulsivo, io sono pure io impulsivo, mi feci prendere anche da, perché, ma più proprio preso dalla disperazione che se ne andava, perché io quando ci penso veramente, guardate, è una sensazione brutta, mi dà fastidio pure pensare che Enrico Buonocore se l'hanno dato. E quindi poi vedi, ritorniamo sempre nel baratro del fosso cileno, del buco, che non so il nome, quella è la situazione che noi purtroppo, io mi ricordo molte volte con il buon Mauro Angelini, che saluto se ci sta ascoltando, mi ricordo qualche volta che sentivamo dietro in eccellenza, lì alla finestriella, dietro agli spogliatoi, e sentivamo parlare di qualche dirigente. E non ti nego e non vi dico la delusione e l'amarezza che tutte le volte che rimanevamo lì d'inverno, novembre, ottobre, novembre, dicembre, a prendere umidità, a sentire notizie che poi erano sempre nefaste. Allora per un tifoso c'è una condizione veramente pessima nei ricordi di ritornare, nei ricordi che sono stati pessimi, e poi la paura di ritornare in quella situazione. No, Ciro, come... No, è così, purtroppo noi... Anche tu, perché poi tu ultimamente... questa non è una cosa che ti voglio sottolineare, ok, anche tu un po' che ti eri allontanato proprio per questa situazione di incertezza, di amarezza che ti vivi, insomma, che pure io un periodo non ci sono andato. Ma io la domenica, bene o male, cioè la partita un altro spirito. Perché alla fine, cioè, io non vengo a fare, cioè, io per seguire l'Ischia, io comunque devo lasciare a casa moglie e figli. Cioè, l'unico giorno che posso stare insieme. Allora, se io faccio tanti sacrifici, al di là di quelli là economici, al di là di quelli là fisici, cioè, lascio la priorità che è la famiglia, la lascio a casa e vengo contro, cioè, ricambiato, che praticamente non c'è il nulla. È sì, nulla. Sì, allora sì. Tu ti rendi conto che a 33-34 anni dici, ma che fai? E cerchi di salvaguardare quella che è quella, la cosa primaria, che è la famiglia. Sì. Però nel momento in cui tu vedi... Ma non era un rimprovero, una cosa, è proprio un dato di fatto. Ma la realtà, e lo dico, sono il primo a dirlo, però io sfido chiunque... Ma sfido chiunque che ad oggi, a 35 anni, con moglie e figli, tutte le domeniche prende e me ne vado per andare a vedere l'Isco. Cioè, io voglio vedere quante persone fanno questo. Io lo faccio perché realmente amo l'Ischia, perché io la seguo da quando avevo 8-9 anni e lo potessimo neare in pagliazzo, cioè, sono sempre stato pure al vecchio Rispoli, mi mettevo dietro alla porta, perché io veramente amo lì. Io non sono tifoso di squadre di serie, cioè a me la Serie A, della Roma, almeno, no, io simpatizzo per la Roma, perché mi è sempre piaciuto, mi è sempre stato così, ma se devo dire che sono tifoso, no. Io sono tifoso dell'Ischia, cioè a me non mi interessano le altre squadre, tipo la domenica mi metto, pure quando non gioca l'Ischia, c'ho Sky e non lo guardo, cioè non guardo. Io non guardo più, perché mio figlio mi fa avere più niente, praticamente sono tra Cars 2. Cars 2, solo quello vedo, quindi non posso vedere né SpongeBob, ogni tanto, le organe fifune, quindi queste sono Barba tutto. Papà? la mattina, probabilmente. Poi c'è tutto un rito. Lo so, me lo dice a me. Quindi, Fragolina dolce cuore, la bambina. Barba papà, SpongeBob. Quindi è un monopolio attualmente. Quindi per me diventa difficile. Ma già metà la televisione in due bagni, papà. Ma c'è sta su smartphone, quindi Beh, ma Ivan codice ma Aldo Marina o è assente, sta facendo un abbracciato con Gaetano Colonnello. Meteor Crater o Canyon, come si chiama, Canyon Diabolico. Ah, questo è il famoso il buco nero, quindi praticamente come si chiama, Canyon Diablo, bellissimo. Ah, questa è la cosa alla quale ti riferivi prima. Canyon Diablo, sì. Il buco nero. Ragazzi, io comunque volevo, mi sembra da parte nostra un atto doveroso anche omaggiare Andrea Imbagliazzo, il ragazzo che sta facendo benissimo al torneo di Viareggio. Non a caso ci ha salvato da... parliamo ancora oggi del Ischia. Se parliamo dell'Ischia grazie a questo ragazzo. Assolutamente. E da 2020. Chi l'ha scoperto però, occhio. Da chi l'ha scoperto? Chi l'ha scoperto? Molto ironico. Ironico, infatti l'ho capito. Io penso che Bilard sia stato uno degli sponsor migliori per questi ragazzi. Allora, io spendo due parole per Imbagliazzo e ne spendo tre per Ciro Bilardi. Cioè, Ciro Bilardi per me è il numero uno per quanto riguarda le fasce giovanili. Non lo voglio giudicare per quanto riguarda le... Ma sono i numeri che parlano però, per bravo, lui. Questo è perché praticamente lui con i ragazzi sull'isola al momento è il top. Quindi quando parla Bilardi dei ragazzi, io sono stato felicissimo quando ho saputo a giugno che praticamente Bilardi doveva essere il fautore del settore giovanile, proprio perché Bilardi secondo me anche se il ragazzo, il signor, adesso non so il cognome, io, l'allenatore degli allievi, veramente molto preparato, bravo, veramente bravo. Mi è piaciuto. Comunque noi abbiamo sempre avuto, diciamo, Ischia, comunque anche alle terre, lo stesso Daratà, lo stesso Billone, insomma sono persone noi ad Ischia molte volte, caro, ci compreso Pierangelo, non è che noi come spirito, come forma mentis, siamo un pochettino amandolo forastese, ma neanche proprio latitiamo da un punto di vista dell'apprezzamento indigeno, cioè nel senso che quando una persona è del posto non è che lo gratifichiamo con complimenti, perché siamo la nostra, non è una forma di cattiveria, secondo me è una forma, proprio è una un'educazione che è così, perché poi non si spiega giustamente, qua ritorniamo sempre allo stesso discorso, non si spiega per quale motivo non si investa nulla in nessun tipo di attività. Questo ti fa capire qual è lo spirito. Ma, io esco un attimo fuori binario e poi ci rientro. Io domenica sono... Chaggington. Chaggington. Allora, tornando in tema di cartone animale, chi non ha capito. Allora esco fuori tema dicendo che domenica sera ho visto quel programma a Rai 3 e quel pescatore diceva sulla barca che per fare del bene sull'isola c'è bisogno di un sindaco tedesco. Ecco, quella è la nostra mentalità. Sicuramente. Mentalità sbagliata, perché noi ci dobbiamo affidare il nostro paradiso a persone che così nel mondo del calcio, così lo pensiamo. Sì. Aperto e chiuso. No, ma no, vai d'Italia, vai. Proprio nel sociale, caro Ivan, non possiamo chiudere così, perché questo poi rientra proprio nella nostra, lo sport è uno specchio anche della società. No, perché lo sport a buoni livelli, a medi livelli, comunque è uno specchio della società, quelle che siamo, noi siamo niente di meno, siamo l'unica squadra defraudata in maniera diretta, in maniera anche diciamo quasi illegale dalla Lega, e a non essere ritornati dove eravamo. Quasi tutte le squadre che sono fallite sono ritornate tra i professionisti. Noi niente, nonostante non ci è stata data la possibilità di appellarci, di rifarci a quelle che era un nostro diritto, perché noi dalla sera alla mattina ci siamo svegliati che ci avevamo due occhi, ci siamo addormentati con due occhi, ci siamo svegliati con mezzo occhio, tecnicamente il discorso è proprio questo qua. Quindi il nostro disinteresse rappresenta quello che siamo una società disinteressata in tutto. Sì, bene, intanto abbiamo un altro piacevolissimo collegamento, lo ricorderete sicuramente, beh, i più ragazzini no, ma qualcuno sopra i 30 ricorderà sicuramente il grandissimo Francesco Corsini. Ciao Francesco. Buonasera. Buonasera Corsini. Buonasera a tutti voi radioascoltatori di Radio Treccia e buonasera a tutti i tifosi. Come va? Tutto bene, tutto bene. Noi ricordiamo con grande piacere, soprattutto noi che siamo quelli che hanno vissuto il suo periodo qui a Ischia, insomma, un giocatore prima di tutto molto valido, ma anche una persona, un grandissimo professionista, una grandissima persona. Questo è il ricordo che conserviamo di Francesco Corsini. A me fa enorme piacere sentire queste parole, anch'io conservo un enorme ricordo di quei quattro magnifici anni passati su quell'isola tra vari campionati di C1 con grandi personaggi come Cucchi, Valugani, con Casale, e quindi li porto con i due sceriffi Taratà e Biglione, quindi sono dei ricordi indelebili che porto e che li conservo sempre con me e seguo ancora, nonostante sono passati 12 anni, seguo ancora con affetto tutti i risultati di questa squadra, di questa società che dopo tante disavventure sta cercando di ritornare ai livelli che sinceramente le compete, sia come cittadina che come tifosi. Francesco, qual è stato il tuo ricordo più bello di Ischia? I ricordi più belli, devo dire la verità, sono stati tanti. Vedere quello stadio gremito, specialmente la prima partita Ischia-Ternana, purtroppo il risultato è stato negativo, però rimane quello stadio pieno, il porto pieno di tifosi, quindi è un'emozione che sono bellissimi. Poi ci sono state tante partite, derby con la Salernitana, derby con il Nola, i derby con la Juve Stabia, e quindi ce n'è tanti di ricordi. Sì. E ci sono anche delle cose brutte, purtroppo. Ischia-Messina, secondo me, è più brutto. Ischia-Messina, e dopo quindi sappiamo tutti quello che è successo, e che purtroppo poi io, come avete detto voi, nella troppa generosità, purtroppo ci ho rimesso un pochino anch'io come persona e come calciatore, però purtroppo parliamo di cose. Infatti, come la vedi l'Ischia, Francesco? Come squadra, secondo te? Io l'Ischia la seguo attraverso, ora con questo Facebook che è diventato sinceramente un martello. Gli amici e i tifosi, perché prima che i tifosi sono amici, tipo Ivan, Iaccarino, tutti questa gente qui, sì. Tramite questo Facebook sto seguendo tantissimo le avventure di questa magnifica squadra, che è partita molto bene, poi magari ha avuto degli ottimi risultati, poi il cambio di allenatore, però ora ho visto la classifica, c'è magari una partita da recuperare, ce la può fare benissimo, e poi con questi tifosi stupendi l'Ischia deve ritornare non in seconda divisione, ma al giro di due anni in quel calcio che compete sinceramente a questa gente. Anche perché, caro Francesco, che a noi ci hanno, come dicevo poc'anzi, ci hanno defraudato, ci hanno dalla mattina alla sera eliminato senza darci neanche possibilità di difenderci. Cioè, fu una squadra, una storia eliminata dopo 16 anni di professionismo, eliminata così dalla sera alla mattina in maniera del tutto gratuita. Questo è quello che fa più male. E rimanere ancora in questi campionati, perché poi immagino un poco disputare un campionato di eccellenza qui in Campania, che cosa può essere? No, soprattutto, ma io, scusami se ti interrompo, ho visto delle foto e vedere una tribuna affollata in quel modo lì, una squadra in Serie D o in quarta divisione, in interregionale, come e vedere magari tribune come Livorno, come Empoli, squadre che sono in Serie B vuote sinceramente, perché qui il calcio toscano sinceramente colpa anche della televisione, viene seguito pochissimo. Vedere una tribuna così, una squadra in Serie D, sinceramente fa veramente dispiacere. Francesco, ecco, dimmi. Ciao, sono Ivan. Senti, adesso tu cosa stai facendo? Stai allenando? Io giochi? Ora mi sto divertendo, mi sono buttato nel settore giovanile. Ora c'è una squadra di juniores qui a Massa, perché mi sono trasferito purtroppo anch'io, è successo tante cose, tante disavventure, sono separato, ora prima vivevo a Cerveto, ora vivo a Massa, dove tra l'altro avevo anche militato in questa società, e quindi sto facendo l'allenatore e mi sono buttato nei ragazzi, perché mi dà molto più una squadra juniores, cioè juniores nazionale, quindi mi dà molte più soddisfazioni allenare i giovani che allenare, magari ho provato anche ad allenare squadre grandi, però purtroppo quando ci subentrano certi fattori, specialmente qui al nord, specialmente in Toscana. Francesco Corsini preferisce allenare il settore giovanile, che dà a più soddisfazione. Senti, ma una passeggiata a Ischia quando te la rifai? Io l'ho fatta e la faccio volentieri, non dico tutti gli anni, però due o tre anni fa sono capitato purtroppo così di passaggio, perché era in crociera. Tutti i miei amici andavano a Capri, ho detto no, io voglio fare l'escursione a Ischia, anche perché la conosco, anche perché ci ho lasciato un pezzettino di cuore e poi ho tanti amici, però c'ho un amico che come un fratello che vado sempre a trovare, Angelo Candido, il fratello di Lontano, quindi è un fratello per me. Quindi tutte le volte che... delle volte non dico niente perché so che mi vorrebbe sempre a casa sua e io voglio di dar fastidio, però ho promesso che molto probabilmente il prossimo anno... con l'Ischia in C oppure in seconda divisione vengo volentieri davvero. Quindi Francesco, l'allenatore, conosci Mariani, perché Mariani stava nella gara nella Massise, quindi sì, Ferruccio Mariani che l'anno scorso allenava qui. È stato anche a Pisa, mi sembra. Sì. Quindi tu eri giocatore insieme a lui all'epoca nella Massise? No, Mariani no, io sono stato negli anni 9, Mariani ancora non lo conosco così di persona, ma non di aver giocato insieme. Ho capito. No. Io alla Massese sono stato gli anni 88, 80, dall'86 all'88, lui è stato molto prima perché magari già qualche anno più di me. Sì, sicuramente. Francesco, per me, sono Ciro, per me sei stato uno dei più grandi terzini che abbia avuto. No, è vero. Un ottimo calciatore. A me mi fa enorme piacere che la gente si ricorda ancora di Francesco. È vero. Un grande professionista. È vero, no, io ti volevo dire perché oggi glielo dicevo a Ivan, io logicamente per la fascia d'età che ho, io il ricordo più bello di Corsini e di Massimiliano D'Urso come terzini, poi ce ne sono stati altri, però grandissimi giocatori, ma al di là di questo, sotto l'aspetto tecnico, io mi ricordo una grandissima professionalità, sia tua che quella di Massimiliano, veramente. Io vi ringrazio e mi dispiace anche per come magari è finito il rapporto tra Francesco Corsini e la società Ischia Isola Verde, mi è dispiaciuto tantissimo. Vabbè, quelle sono purtroppo sì, il mondo del calcio vive di questo. Volevo allacciarmi a questo discorso per dirvi che dopo è stata la mia ultima apparizione nei professionisti, perché tornando indietro non lo rifarei, devo dire la verità, perché sono stato talmente bene quei 4 anni a Ischia che ricominciare ad un'altra società professionista, e quindi ho preferito tornare a Cerveto, buttarmi nella Cerveto e cominciare a fare allenatore e giocatore. Però ripeto, avevo 31 anni ancora, non è che ce ne avevo 40, però purtroppo ho sbagliato, tornando indietro con la testa di ora, perché il calcio purtroppo è una cosa bellissima, ti diverti, ti dà tanta soddisfazione da gente specialmente che sta intorno. Sì. E si guadagna divertendoci. Quindi io ho fatto un enorme sbaglio, perché ritornando da quell'esperienza bellissima, i 4 anni passati su quell'isola con quella gente, la piazzetta, il Calise, sono cose indimenticabili. E quindi non avevo più l'istimo e la voglia, e quindi mi sono buttato nel calcio dilettantissimo, e piano piano poi vai. Magari Magesco, se quest'anno si conclude nella maniera come tutti noi speriamo, sei invitato qui a Ischia, ospite nostro, e magari l'augurio più grosso che faccio a voi, specialmente di Radio Freccia, a Ciro, a Iva, a tutti i tifosi e amici dell'Ischia, un augurio davvero, di vero cuore, di vedere il prossimo anno l'Ischia Isola Verde nelle categorie che le competono. Speriamo bene, Franci. Grazie mille. Grazie. Un saluto a tutti voi, e un ringraziamento particolare a Filippo Pisani, che ho visto che mi ha voluto in questa radio. È vero, lo scrisse. Un ringraziamento particolare a tutti, ma in particolare a lui. Poi saluto gli amici Enzo Padalano, Mister Rispoli e i tuoi sceriffi Pillone, e un abbraccio a tutti. E forza Ischia. Grazie sempre. Francesco, sempre ciao, benvenuto. Ciao Francesco, ciao. Approfitto di questa situazione per salutare il mio amico Franco Imbagliazzo, detto Taratà, ex allenatore degli Scherzi, perché comunque è stato, si è operato la settimana scorsa, ha un piccolo problemino, comunque tutto a posto. E mi fa, perché no, poi... Non sapevo, mi associo, io non sapevo. Ciao mister. E comunque come... Che dir si voglia, rientra sempre nella storia dell'Ischia Calcio. Ma Franco Imbagliazzo è la storia, non è rientra. Come è Billone, come Rispoli. Il più grande allenatore abbiamo avuto. Ma sicuramente

che quest'anno l'Ischia possa ritornare dove merita e dove lo abbiamo lasciato noi. Ecco, quello è veramente una cosa che mi renderebbe veramente tanto tanto felice, insomma. Tony, io e te ci sentiamo abbastanza spesso per ti aggiorno sulle situazioni dell'Ischia e tutto quanto. Come la vedi tu questa situazione? Ma l'Ischia per la Serie D è uno squadrone, cioè è inutile girarci attorno, insomma. L'Ischia con i giocatori che ha quest'anno non può non vincere questo campionato, perché, ripeto, ha una squadra completa in tutti i reparti, quindi insomma secondo me attaccarsi e cercare delle scuse negli arbitri, nelle altre squadre, ridimensiona troppo diciamo la forza dell'Ischia. Sono d'accordo con te. Mi trovi d'accordissimo pure a me. L'Ischia è una squadra e deve vincere anche contro gli arbitri. L'Ischia contro gli due squadre, perché, non una. Perché lo può fare, bravo, lo può fare tranquillamente. Quindi insomma quest'anno c'è tutto. Anche io, ripeto, non conosco personalmente molti dirigenti, ma quest'estate ho avuto, diciamo, il piacere 5 minuti di parlare con Nicola Crisano, e c'è una società che insomma che è veramente di primo livello. La squadra è di primo livello e i tifosi non ne parliamo, perché insomma no, i tifosi sono non voi mi conoscete, io non sono mai stato nella mia carriera da calciatore, non sono mai stato un ruffiano, e figurati se lo devo essere adesso. Però i tifosi sono di livello superiore ai dirigenti e alla squadra, quindi meritano sicuramente questo ed altro, perché io ho sempre detto che un posto come Ischia non possano stare veramente in categorie importantissime, ecco. Quindi io penso che insomma bisogna cercare di parlare di meno e fare i fatti, insomma. Bravo, ecco, l'Ischia, esattamente. L'Ischia non deve parlare, insomma. L'Ischia deve far parlare il campo, punto e basta. Tony, è inutile. Tony, sono sì. Ivan, senti, dei sì. Giocatori della rosa attuale, tu li conosci tutti in una parte? Sì, sì, io li conosco, ne conosco diversi, perché, ripeto, io essendo innamorato dell'Ischia, io guardo spesso le partite, guardo spesso i filmati che mettete voi attraverso Tifo Ischia, e quindi cioè quando tu hai Ercolano, Manzo, Sarli, Gianni Di Meglio, Scarlato, Trofa, Ausiello, De Rosa, Tito, che è un giovane interessantissimo, anche Finizio mi sembra che si chiama, no? Sì, il terzino sì, bravissimo, sì. Cioè, ragazzi, questa è una squadra che in Serie D se la possono permettere in pochissimi, ecco. Quindi tu con una squadra del genere cioè, devono essere gli altri che devono avere paura di te, non tu degli altri, ecco. Insomma, tu devi andare in campo consapevole della tua forza, consapevole della tua forza, e mettere paura agli avversari già solo quando sentono questi nomi, ecco. Certo, quindi certo. Senti, Tony, ci chiedono dal web, tu stai allenando qualche squadra, cosa stai facendo in questo periodo? Io quest'anno, diciamo, sto allenando dei bambini in una scuola calcio, perché mi sono preso, fino all'anno scorso allenavo qui in una promozione qui in Sicilia, mi sono preso un anno per studiare, sto cercando di aggiornarmi e di studiare, perché l'anno prossimo vorrei fare prendere il patentino, quello di seconda categoria, per poter allenare, diciamo, in Serie C, e quindi per prendere quel patentino bisogna studiare, quindi ho preso un anno di sabbatico, insomma, di pausa sabbatico, per... esatto, per studiare e cercare l'anno prossimo di poter prendere questo benedetto patentino, insomma. Senti, ma ci dovevi venire a trovare. Vabbè, Tony, però a luglio dicessi ci vediamo per la prima di campionato, poi ci vediamo a dicembre. Quando vieni sarai spezzato nella dodicesima vertebra dorsale. No. Io verrò, non di dico il 6 maggio perché diciamo giochi a Massimo Vesuviano il 6 maggio. Vengo la settimana prima, vengo a festeggiare una settimana prima perché insomma bisogna festeggiare con qualche settimana di anticipo, non si festeggia mai, diciamo, l'ultimo giorno, si festeggia sempre un po' prima. Tony, ci chiedono ancora, verresti, vabbè, penso che sia una domanda retorica, una volta conseguito il patentino ad allenare l'Ischia in Serie C, a piedi? Ma io l'Ischia l'allenerei in qualsiasi categoria, non è questione di categoria, io sarei un giorno... Sarei veramente felicissimo di allenare l'Ischia perché io, ripeto, con molti tifosi dell'Ischia ho sempre avuto un rapporto particolare perché in me hanno sempre visto una persona seria che ha dato sempre l'anima per l'Ischia. Quindi mi auguro che un giorno, insomma... Si possono rincontrare le strade. Esatto. Tony, come giovane allenatore, chi è che ti ha impressionato, diciamo, dalla Serie A alla Serie C? Forse Gaudiri? Ma vabbè, sicuramente sta facendo bene, poi sta facendo bene anche Sottile che ha giocato con me nel Torino, Andrea Sottile, sta facendo molto bene a Siracusa. Insomma, giovani bravi ce ne sono tantissimi, ecco. Poi a me, come ben voi sapete, io anche da calciatore e ora anche da allenatore, mi piacciono molto quegli allenatori che parlano poco e lavorano molto sul campo, ecco, quello a me piacciono molto, ecco, gli allenatori che parlano tanto che a me non piacciono molto, ecco, io sono uno molto mi piace il sodo, ecco, le chiacchiere purtroppo nel calcio c'è tanta gente che ne fa, ma le chiacchiere poi alla fine le porta via il vento, ecco. Ho capito. Tony, un pronostico per queste tre partite che secondo noi sono vitali, cioè Oppido, Francavilla e Turris. No, allora sicuramente l'Ischia deve e può fare tranquillamente 9 punti, però io non la vedo, io ripeto, seguendovi molto ho visto che diciamo a un certo punto è venuta un po' di titubanza, di preoccupazione. Insomma, l'Ischia è a 2 punti, diciamo, dal Martina e quindi, insomma, 2 punti è una partita, insomma... 5 punti comunque, però l'Ischia... Sì, con una partita in meno, però, c'è una partita in meno, quindi, sì. Insomma... La matematica attualmente non dice 5, dice 2, perché la matematica... Esatto. Bisogna essere, insomma, bisogna dire le cose come stanno, quindi... Ripeto, io sono molto fiducioso, ecco, ancora il campionato, c'è tutto il girone di ritorno, ci sono scontri importantissimi, chi vorrà sicuramente arrivare, diciamo...